C'erano una volta un bambino e un cavaliere dall'armatura scintillante. Iron Man! Che partirono per un viaggio nell'iperspazio. E all'improvviso il cielo si illuminò con i fuochi d'artificio sul castello incantato. Ma non ha senso, tesoro. Sì, mamma, a Disneyland Paris tutto è possibile. A Disneyland Paris la magia diventa realtà. Prenota il tuo soggiorno su disneylandparis.it. Modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Carissimi amici, stavo per dire di tutto un podcast, ma non è di tutto un podcast perché no. Think. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Benvenuti a questa prima puntata ufficiale. Prima esperienza live di noi due, da soli. Da soli? Chissà che combineremo. Ma soprattutto non ci lasciate da soli, ragazzi. Così. Vabbè, però non è che adesso dobbiamo stare con la fissa di guardare se ci stanno o non ci stanno. Tanto quando la gente c'è, arriva e ci guarda. Insomma, non è questo. Sì. Comunque, nel frattempo, prima puntata ufficiale, prima puntata live. La puntata precedente l'abbiamo considerata come un pilot, così tanto per anche per vedere insomma se eravamo ancora un po' in forma. Abbiamo oggi sancito la quasi nascita della nostra associazione e quindi insomma siamo abbastanza contenti di questo. E intanto c'è già insomma un piccolo problema tecnico, ma va bene, lo risolviamo subito, speriamo. Ok, sì, l'ho risolto. E la nostra quasi nascita dell'associazione, sì, Michele, soprattutto è fortunatissima. A cavallo tra ottobre e novembre le cose devono nascere sempre in questo periodo, non c'è niente da fare perché sono nata io, è nato mio figlio, ci siamo sposati, quindi ottobre è parta fortuna. Giustamente, a noi perlomeno un mese che ci porta sicuramente molto bene. Quindi vabbè, è stato sancito il fatto che c'è adesso un gruppo di partecipanti che saranno ovviamente i soci fondatori. Detto questo, insomma, io direi che siamo pronti per partire. Siamo pronti per partire. A questo punto, insomma, giustamente, sapendo che il nostro è un programma che è prevalentemente un programma musicale, direi che partiamo dalla seconda canzone perché c'è stato un problema. Quindi, ah, sì? Sì, esatto. E vabbè, allora partiamo direttamente da The Rolling Stones, così ci carichiamo subito, e da una bellissima e allegrissima e fantasticissima She's a Rainbow. In blue, see the sky in front of you, and her face is like a sail spinning. white, so fair and pale. Have you seen a lady pale? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. She comes in color. Have you seen her all in gold? Going down. Vabbè, come avrete intuito, insomma, siamo partiti un po' con qualche casino, però va bene, è normale quando si gestisce tutto quanto da soli. E no, quindi... quando poi ti prende la scimmia. No, che scimmia, in realtà stavamo da soli, doveva fare quello, doveva fare quell'altro, cliccato 6-7 cose insieme, non ci ho capito niente. Capito, tu vuoi fare la regia, vuoi fare la radio, devi saper fare tutto. Lo so, ma infatti noi queste prime fasi le facciamo perché ci stiamo addestrando fondamentalmente, stiamo cercando di imparare a fare cose che... Oddio, qualcosa dovrebbe essere fatto in automatico. Non siamo capaci. Comunque, Everything, questa è la nostra trasmissione. Stiamo per iniziare, quindi iniziamo con il tema che abbiamo pubblicizzato, che è arrivato quello... Carmine nel frattempo. Intanto salutiamo Carmine in chat, ci fa sempre compagnia. Abbiamo detto, insomma, il tema di cui tratteremo questa sera. Parleremo un po' degli Stati Uniti, delle ultime cose, insomma, che riguardano questo paese, soprattutto nell'immediato. Lo faremo col nostro modo, con la nostra simpatia, insomma, con la nostra anche non superficialità, ma insomma, certo, noi siamo giornalisti o professionisti, ma insomma, no, diciamo che la butteremo molto in caciara, molto in caciara, sì, esatto, ovviamente. Diciamo prima di iniziare che Everything lo cercatelo su Facebook prima di tutto, quindi fate mi piace sulla pagina e seguiteci sempre su www.runtimeradio.it, che è chiaramente il nostro contenitore sovrano. Allora, Michela, l'argomento di cui vogliamo parlare è gli Stati Uniti. Sì. Ma nello specifico siamo spostati veramente in questo centro del mondo, che adesso veramente tutti gli occhi sono puntati sull'America, sugli Stati Uniti, e ci siamo voluti concentrare sul fatto che questa settimana praticamente non si è parlato altro che d'America anche in Italia, nel senso che come poi vedrete, ha monopolizzato praticamente tutte le televisioni, i giornali e quant'altro. Però ha monopolizzato per una ragione, sì, perché comunque stiamo parlando delle presidenziali del paese più importante a livello planetario. Le presidenziali più caciottare della storia, tra l'altro, consentitemi di dirlo. Poi dopo lo diciamo magari con maggiore precisione, insomma, diciamo che abbiamo... esportato, dobbiamo essere orgogliosi di questo, sì, abbiamo esportato un modello. Dei livelli bassissimi, dei livelli veramente bassissimi che io non pensavo di poter mai vedere in America, cioè neanche quando c'erano i guacqueri, cioè, proprio delle cose assurde. Come chi sono i guacqueri? I guacqueri mi sembrano quei qua che è guacqueri, su. Scusa, ma tu non sai che la prima barca che si è spostata dall'Inghilterra, una delle prime barche che si è spostata dall'Inghilterra per occupare gli Stati Uniti, l'America, era la Mayflower, era praticamente una barca piena di guacqueri. Vabbè, no, è importante anche questo per sapere, insomma, perché capire anche come sono le origini di una nazione per come la conosciamo, sì, noi. Comunque abbiamo esportato un modello, abbiamo esportato il berlusconismo, perché sappiamo che a livello di partito conservatore repubblicano gli americani volevo hanno... avvertire tutti gli ascoltatori che io diventerò una giraffa alla fine della serata. Vabbè, trova un sistema. A parte che non c'è bisogno che stai così vicino. Già così va bene. Ok. Comunque, diciamo, abbiamo esportato, perché il Partito Repubblicano di soggetti strani ce ne ha avuti, eh. Bisogna riconoscerlo questo. Anche democratici, per carità di Dio, però, insomma, ma secondo me Trump è la rappresentazione del berlusconismo all'ennesima potenza. Ma no, ma poi è la rappresentazione del vuoto all'ennesima potenza. È quasi la stessa cosa. Comunque parliamo di un personaggio miliardario che contro qualsiasi previsione, ovviamente anche grazie alla sua forza economica, è riuscito ad imporsi nelle primarie del proprio partito, anche contro, voglio dire, l'establishment del partito stesso, insomma. Quindi, assolutamente. Ma chi è Donald Trump? Perché sai, noi conosciamo la Trump Tower, conosciamo il fatto che è un miliardario, ma insomma Donald Trump è prima di tutto un imprenditore. Quindi è un imprenditore e un personaggio assolutamente, quindi è l'uomo che si è fatto da solo. Da solo pure lui. Self-made man. Okay. Ma anche lui è operaio? Non credo, ma non penso proprio, non ce l'ho proprio. Non ce lo vedi? No. Mentre Berlusconi un po' di zampognano ce lo vedevo. Trump proprio veramente capo. Berlusconi è una massonana nel Navi. Sì, appunto. Trump, vabbè, con quei capelli, dove va? Appunto, dove va? Comunque, è un imprenditore, un personaggio televisivo statunitense, è figlio di Fred Trump, facoltoso investitore immobiliare di New York, e da cui è stato influenzato nel proposito di intraprendere una carriera in questo settore. Vabbè, quindi fondamentalmente viene già da una famiglia di imprenditori. Quindi sì, insomma, diciamo che poi le sue strategie aggressive e il suo stile di vita, i suoi modi diretti e anche il suo voler comunque mettere tutta la sua famiglia, diciamo così, in vetrina, hanno accresciuto la sua popolarità, prima di tutto come personaggio televisivo e personaggio comunque popolare, insomma, era anche sposato con una nota pornostar. No, non era una pornostar. Allora, la pornostar è quella che l'ha denunciato delle molestie. Sì. Che poi vabbè, la pornostar che te denuncia delle molestie sessuali è un po' ridicolo, però vabbè. E ha concorso senza successo già nel 2000 le primarie del Partito della Riforma. Sì. Vabbè, dai. E si è candidato già alle elezioni presidenziali del 2000, ma nessuno l'ha preso sul serio. Però non si sa come mai nel 2015 ci ha riprovato. Beh, perché ha investito più soldi, sì, si vede. Sì. Probabilmente. Sì. E che poi, cioè, nel senso, è un po' come dire: sei miliardario, puoi fare quello un po' che vuoi e ti presenti anche un po', diciamo, con che lui con gli atteggiamenti un po' baccari. Ha catturato il cuore degli americani, perché lasciatecelo dire, mo io country tutta la vita, per carità, ormai l'America mia amica, eccetera eccetera, però amica tua amica. Sì, ha catturato l'attenzione e il cuore diciamo così, dei votanti americani con alcuni punti focali della sua campagna elettorale, ovvero posizioni populiste e conservatrici, in particolare le sue dichiarazioni in favore del libero utilizzo delle armi da fuoco, che hanno suscitato aspre polemiche, tra l'altro, e la sua proposta di istituire una moratoria sull'immigrazione delle persone di religione islamica. Cioè, una moratoria lui intende proprio un muro, cioè, nel senso, sì, che poi non è pretendere troppo da, cioè, Trump, come abbiamo detto, è un ricchissimo personaggio popolare a livello televisivo che ha i modi di un vaccaro. Sì, ma lui è un grande amante del World Wide Westing, quindi proprio diciamo che lui prende molto, secondo me, proprio all'anima conservatrice degli Stati Uniti, no? Quindi quella provinciale, quella. E invece dall'altra parte ci abbiamo quella che dovrebbe essere un po' la contrapposizione a Donald, sì, Trump, anche idealmente, perché parliamo, insomma, del Partito Democratico, che in teoria è la parte progressista, tra virgolette, americana, per quanto poi gli americani concepiscano, insomma, il modo di essere progressisti. Quindi parliamo di Hillary Clinton. Ma un attimo avanti, perché vabbè, allora facciamo una cosa, dato che mia moglie si impiccia euro, perché c'ha sempre, insomma, 50 tablet, non si sa per quale ragione, ci ascoltiamo Radioactive. Sometimes I wipe my brow, but I sweat my rust. Breathing in the chemicals. Breaking in, shaping up, checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, dye my clothes. It's a revolution, I suppose. Painted red just to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. All systems go, the sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Siamo sempre con le pezze un po' così, però no, siamo, siamo tornati attrezzatissimi, cioè abbiamo uno studio che è fantastico, ragazzi. Eh sì, non si regge l'asta del microfono. No, casca, va giù, quindi io faccio la giraffa. Vado adesso, giù, vado giù, vado giù. Al contrario, su. Però la giraffa di andare verso il basso. La giraffa che bruca, esatto. Bruca l'erba. Ok. Vabbè, comunque siamo a Hillary Clinton. Siamo al weekend col morto, ragazzi, perché, ragazzi, a parte, vabbè, mo parliamo seriamente di Hillary Clinton, però l'episodio della polmonite è stato fantastico, cioè poraccia, stava quasi per morire, è collassata lì, però tutti i fake che ci sono stati in giro per Facebook mi hanno fatto venire, cioè, perché weekend col morto, con lei che se la portavano dietro tipo ombra volante, era fantastico. Non so neanche di che parli, non l'ho proprio seguita sta cosa. Durante la campagna elettorale Hillary ha avuto una forte polmonite, quindi prima di un incontro due o tre botte, scusa, prima di un comizio ha collassato tipo, e quindi Donald Trump ha cominciato a fare: è una drogata, fategli test antidoping, adesso fategli le... a lui poi lo dice che sì. Fare il test antidoping ai capelli. Vabbè, comunque. E poi vabbè, ovviamente Carmine ci dice: quella è l'unico altro essere vivente al mondo che c'è il server di posta elettronica a casa come me. Perché ovviamente. Poi salutiamo Tullio Nicolussi che ci dice che non siamo soli, che la musica è bella, ideale per una serata tranquilla mentre lavora ai suoi progetti sul Mac. E direi PC, ovviamente è un'eresia. E non si riesce a seguire bene i discorsi perché non riesce a concentrarsi, ma va bene così. No, ma anche perché non stiamo dicendo niente, stiamo andando a casaccio. No, stavamo comunque guardando. Vabbè, torniamo un attimo a noi. Abbiamo presentato Trump. presentiamo Ilari, perché Ilari, al di là della questione della polmonite che ha scatenato anche tante polemiche, perché è anche giusto, cioè se tu ti candidi adesso il presidente degli Stati Uniti, se stai per morire ce lo devi dire, perché sì sì, infatti Trump ha detto quell'amore la votate e poi morirà subito, da, da botte sono... scusate ma brucare l'erba qua è difficile, lo so. Comunque comunque Ilari, chi è sta Ilari? Ilari Diane Rodham Clinton. Nata a Chicago il 26 ottobre 1947, è una politica statunitense del Partito Democratico, già senatrice e segretario di Stato. E... io ho subito una domanda, ma è ancora la moglie di Bill Clinton? No, credo sia sì, sia ancora moglie di Bill Clinton, no? Comunque... cioè l'ex, cioè sono sposati, sono divorziati, perché ne porta il cognome, insomma, questo voglio dire. Ma no, è sposata, è ancora sposata con Bill Clinton, infatti ne porta il cognome, lui partecipa comunque come bel pupazzetto durante gli incontri. Vabbè, lui era pure prima, era un pupazzetto, eh. Ah, beh, quello... cioè, c'era proprio la faccia dell'americano sorridente, un po' la Kennedy, capito? Cioè, sì. Però insomma, era un noto cialtrone pure Clinton. È sposata con Bill Clinton dal 1975, è stata First Lady, quindi come ricorderemo tutti, dal 93 al 2001, e successivamente ha prestato servizio per 8 anni come senatrice dello Stato di New York, venendo eletta per il suo primo mandato mentre ancora era First Lady. Quindi c'aveva già tutto il disegno. C'era pure il conflitto interno. Che poi noi ci lamentiamo tanto un po' della politica nostra, però voglio dire, alla fine, negli ultimi 20 anni... la Casa Bianca è stata praticamente abitata da intere famiglie, che è stato Bush padre e figlio, Clinton moglie e marito, perché dai, è Kennedy è no, chiaro Kennedy, che no Kennedy no, vabbè c'entra mo, però dico nel senso, tanto oramai vince lei, no, perché Trump si è un po' suicidato da solo, sì, quindi. No vabbè, ma comunque è un diciamo così, è una specie di secondo casta, vabbè, non voglio fare il 5 stelle della situazione, però comunque ecco, una volta che subito, sei dentro subito, il facciamoci sistema, voler bene subito, ma no, ma una volta che sei dentro il sistema, secondo me quello è il leader, insomma, è comunque una situazione molto difficile da gestire dal punto di vista anche diplomatico, quindi devi acquisire alcune conoscenze, alcune comunque, cioè nel senso, tu dici loro se fanno moglie e marito, padre e figlio, perché dice sai è talmente difficile governare gli Stati Uniti che mo che noi si siamo imparati è meglio che continuiamo noi, questo tu puoi dire. No, secondo me è più per una continuità politica lavorativa, per una continuità lavorativa di contatti, cioè di... nel senso si abituano, diventa casa loro dopo 8 anni. Beh, però tu comunque devi anche considerare che l'America e gli Stati Uniti sono comunque il fulcro di tanti trattati internazionali, certo. Quindi comunque è difficile poi lasciare a una persona che comunque non segue il tuo operato, che quindi potrebbe rivoltare tutto il tuo operato e quindi tutto il lavoro fatto, vabbè. Metti i grandi lavori comunque che sono stati fatti durante gli anni, inutili, perché molto inutili, però ma questa è nella logica del bipartitismo americano, no? Nel senso, sì. Comunque poi considera che in generale l'America ci ha sempre avuto una grande alternanza, in realtà è questa fase anomala che c'ha addirittura quasi 3 mandati democratici, insomma, che la dicono lunga, perché poi anche in questa fase non mi sembra che gli Stati Uniti stiano esprimendo una classe dirigente, una leadership insomma di grande livello. Vedo che a livello generale proprio la politica insomma è un po' quella che è. Sì. Però a me in realtà questa Hillary Clinton un po' mi incuriosisce, perché sì, è la moglie di Bill Clinton, che è stato comunque un presidente abbastanza contestato. È possibile che pure lì a livello democratico non ci avevano veramente un'alternativa? Cioè questa è un po' la cosa che mi incuriosisce, insomma. Però poi che meriti c'ha? Cioè, al di là del fatto di essere stata una senatrice, cioè, che ne so, difende i diritti dei Zamballa o che ne so, qualcosa, insomma, avrà fatto questa. Beh, no, lei ha lavorato molto, allora, ha lavorato molto, tra virgolette, dietro le quinte, cioè, per uno stato importante come quello di New York, è stata a lungo senatrice dello stato di New York, e lì era già la prima first lady che comunque lavorava in politica, e quindi aveva un doppio ruolo, e già questo lavoro comunque l'ha portata ad un, diciamo così, ad un ruolo preminente. Nel 2007 ha annunciato, quindi è già dal 2007 che lei lavora per entrare comunque a far parte del dell'establishment politico americano, ha annunciato di voler comunque sfidare Barack Obama alle presidenziali. Ah sì, sì, è vero, perché sì, io mi ricordo che c'era sta questione, sì, legata a... Tant'è che loro comunque hanno bisticciato. No, hanno combattuto per questo ruolo, perché durante le primarie praticamente la sfida era proprio tra lei e Barack Obama. Poi ha vinto Barack Obama, e Barack Obama ha affidato a lei il ruolo di vicepresidente, di segretario di Stato. Ah quindi, sì, perché anche lei comunque un ruolo nell'amministrazione Obama non ce l'ha avuto. Assolutamente. Lei è ancora tuttora il segretario di Stato americano. Vabbè, allora dai, andiamo poi dopo a vedere un po' agli aspetti, insomma. Però gli aspetti preoccupanti, o comunque diciamo così poco onorevoli, sono quelli comunque che la legano alle vicende di suo marito, e quelli che comunque Donald Trump ha utilizzato praticamente portandogli tre ragazze. Vabbè, cioè, suo marito era un grande malato sempre, di sesso, insomma. Sempre perché Trump è un ciavattaro, sì. Però voglio dire, ci stava, cioè, nel senso, certo, non so se l'avrei fatto anch'io, però forse sì, insomma, me la sarei giocata anch'io. Vabbè, dai, mo torniamo fra un minuto. Feels like fire. I'm so in love with you, bird of soul. Dream on like angel, to keep better be. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, bird of soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, the soul. Make love your goal. I protect you from the all that's glow. Keep the vampire. tongues of fire burst to show. Make love Se vi fosse venuto qualche dubbio, questa è The Power of Love dei Model Connection, la versione di Model Connection. Dunque, se parliamo di politica dal punto di vista proprio strettamente legato alla campagna elettorale, perché poi sapete le campagne elettorali insomma sono sempre i momenti più importanti, forse anche più divertenti in generale della politica, e noi siamo abituati a magari a tenere in considerazione alcune cose scandalose che succedono da noi, ma in realtà anche l'America è un paese che ci ha abituato anche a sonde dossier anche nel passato, insomma, quindi sono campagne elettorali al vetriolo, ma mai come probabilmente in questa campagna elettorale spesso e volentieri si è rischiato di non parlare proprio di politica, perché a Trump, al di là delle accuse su quelle che sono le sue politiche ultraconservative e anche estremiste, perché chiaramente stiamo parlando di uno che ha delle posizioni sul discorso dell'immigrazione, sulle armi, che sono veramente da far west, no? Proprio da America del fine 800. Diciamo che Trump c'ha la faccia tosta, perché comunque c'ha la faccia tosta dell'americano ignorante e un po', diciamo così, e un po' schifosamente ricco, ma anche Hillary è stata abbastanza sveglia nel frattempo, insomma, pure lei ha fatto abbastanza come gli pare. Vediamo lo scandalo delle mail di cui... Sì, vabbè, allora, Trump è stato caratterizzato oltre... Allora, c'è questa questione dell'alleanza con... dell'amicizia, anzi, aspetta, con Putin e Berlusconi, che non piace molto. E poi c'è anche il discorso del fatto che Trump c'ha questa questione delle molestie sulle donne, ma più che sulle molestie sulle donne, che sicuramente poi dopo, sapete, in campagna elettorale poi cominciano a uscire le cose, io sono stata molestata, a me mi ha toccato il culo e via dicendo. Sì, vabbè, ne esce una ogni giorno. Esatto, quindi c'è proprio il modo in cui lui parla delle donne, cioè questo sciovinismo, questo maschilismo che esce fuori da questo personaggio, che è veramente... probabilmente in altre parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, è inaccettabile, insomma, perché poi abbastanza, abbastanza inaccettabile, sì, è abbastanza irrispettoso, ma soprattutto in una cultura così molto incentrata sui diritti delle donne e su comunque l'importanza del rispetto, insomma, dell'equità dei ruoli tra uomo e donna, viene comunque incredibile pensare che un uomo come lui, come comunque questa si è fatto comunque riconoscere, possa sì, infatti Trump fa sembrare ad Inolfi uno delle femmine, è verissimo. E comunque sì, rimane il fatto che lui ha minacciato tutte le donne che lo avessero accusato durante la campagna elettorale, che chiunque si fosse fatto avanti, mi sembra proprio recentemente, chiunque si fosse fatto avanti di nuovo per allungare questa lista già lunga di donne comunque in qualche modo molestate, anche solo a parole, perché comunque anche Verbalmente lui è una persona molto poco pulita, diciamo così. Ha minacciato queste donne di poter far causa a tutte quelle che comunque continueranno a importunarlo in un certo senso, a continuare a dire, o tutte quelle che escono fuori dicendo anche io sono stata molestata. Ma in realtà secondo me il problema di fondo sta anche nelle sue dichiarazioni, perché lui poi in realtà è vero, poi non dobbiamo farci poi troppe ipocrisie, perché lui dice comunque una cosa che sappiamo tutti, cioè quando sei VIP tu alle donne gli puoi fare quello che gli pare, che ti pare, cioè nel senso puoi avere atteggiamenti, puoi chiedere cose che probabilmente in altre condizioni, ma cioè noi l'abbiamo visto con Berlusconi, l'abbiamo visto nella storia, cioè è così, è un dato di fatto questo. Ora che però tu fai di questo un vanto, chiaramente soprattutto nel momento in cui ti presenti come possibile presidente degli Stati Uniti, la cosa non è proprio caruccia, insomma. Sì, infatti. Ma ci dice, vabbè, sono tutti praticamente pro Hillary, anche perché non c'hanno molta scelta, artisti, musicisti, cantanti, attori. Vabbè, che già notoriamente tendono a essere... E hanno fatto degli spot bellissimi, anche molto spiritosi. Uno tra tanti che poi magari metteremo nel link delle note. Ma anche no. Ma c'è Madonna, come ci dice Carmine, che praticamente è disposta a tutto pur di far vincere Hillary. E... vediamo un po' che cosa ha chiesto. Madonna promette sesso per un sì a Hillary, ma rischia una multa per voto di scambio. Quindi... no, vabbè, ma a parte che poi è pubblicità, effettivamente. Sì, Madonna, vabbè, che se ne entra a scovacco chiunque dice sì sì voto Hillary. Vabbè, ma poi al di là di questo, noi di fronte a tutta questa situazione, anche il fatto di Putin, che poi adesso non affrontiamo, no? Perché si sa che insomma, c'è questa amicizia, lui dice beh, bisognerebbe fare alleanza con Putin e combattere a fianco ad Assad in Siria, no? Cioè, sono cose che ora io qui si diventa un po' complicato, perché secondo me poi qui l'amministrazione Obama ha fatto un po', come posso dire, il gioco ipocrita da un certo punto di vista. Però è vero che insomma non puoi dire oggi facciamo l'alleanza con Putin, che è virtualmente una sorta di nemico, no, per gli Stati Uniti, quasi un po' all'epoca della guerra fredda. Però allora uno dice ok, allora per Hillary proprio strada spianata, no, perché poi pure Hillary le sue belle stronzate ce l'ha. Sì, diciamo che Hillary ha vinto proprio il premio Nobel per il muro di gomma, proprio a proposito di un argomento che toccheremo più avanti, perché comunque secondo il New York Times ha reiterato nell'utilizzo della mail personale durante praticamente per cose di lavoro. Allora aspettate che riprendo il tutto, perché poi non è facile seguire mio marito quando poi io gli dicevo sono pronta per un argomento, invece tu devi essere pronta per tutti gli argomenti. Ho capito, si va a parlare del fatto, non è che sto la signorina buonasera nel ma frattempo. Non sei la signorina buonasera, stiamo parlando di argomenti, cioè parliamo di Trump e ho poi capito, parliamo di Trump, parliamo di quello, ti dico guarda sono pronta su quello e tu mi inventi qualcos'altro. Lo so, ma io seguo la scaletta, che vuoi? No, non c'è la scaletta, non è vero. No, assolutamente. Vabbè, adesso pubblico la scaletta così la vedete. Se vuoi metto un brano. No, ci sono. Durante i 6-4 anni di mandato da segretario di Stato americano, Hillary Clinton ha usato per le cose di lavoro sempre e solo il suo indirizzo personale di posta elettronica. La cosa ha impedito alle autorità federali statunitensi di acquisire i registri delle sue comunicazioni professionali, come da prassi per chi ricopre incarichi pubblici. I famosi incarichi pubblici. E quindi, secondo il New York Times e secondo ormai tutti, ha violato palesemente la legge. Adesso rimane il fatto che se l'ha fatto intenzionalmente o no. È venuta fuori da pochi mesi questa cosa, durante una ricognizione del Dipartimento di Stato, e gli assistenti di Hillary Clinton hanno consegnato praticamente 55.000 pagine di email selezionate dalla sua casella. Quindi la cosa importante che mail scriveva questa? È che non, ma parliamo comunque dei 4 anni di mandato. Ho capito, cioè, vabbè, dai. Cioè 55.000 mail è normale al lavoro, 55.000 mail, no, pagine mail sarebbe, cioè sarà una pagina mail, un paio di pagine ogni mail, magari una mail, magari ci sono tutte pagine, le code delle risposte, non lo so, la cosa importante è che non si sa se queste 55.000 pagine sono tutte le mail che lei ha inviato, ricevuto. Quindi, durante il suo mandato, in buona sostanza, se tu fai parte dell'establishment governativo devi utilizzare la mail che governativa, perché che si dà questa stato. Deve essere archiviata, cioè nel senso in qualche maniera deve essere notificato. Se vediamo Danilo che esce fuori dal fungo e chiede di che si parla. No, si parla di Hillary Clinton. Adesso parliamo di America, Danilo. Cioè il filo conduttore è quello. Che poi diciamo che gli americani sono un po' strani da sto punto di vista, sì. Però, cioè ammettiamo, cioè da noi non si riesce a far arrestare uno che palesemente ha rubato dei soldi, e questi stanno a fare le questioni sulla posta elettronica, cioè va bene. No, che... Massimo, ma che dici? Cioè, ma che dici? Stanno a fare le questioni sulla posta elettronica? Ma cioè, perché miseria, ma tu usi la tua posta privata per questioni governative mondiali, cioè. Sei un segretario di Stato, ma no, che non è sicura. Ma tu devi essere trasparente, cioè quella... È trasparente, la mail sua è trasparente. Ma non è sua, è privata, quindi io non posso avere accesso alla sua mail privata. Ma il problema che si è scatenato è proprio questo. Quante mail ha nascosto Hillary Clinton? Ma quale nascosto? Ma sono tutte stronzate, dai. Berlusconi si faceva spia mentre che andava a scopare quando era ospite. Ma c'è Berlusconi? Putin. Ma stiamo a parlare degli Stati Uniti. Ma che vuol dire? Ma è la stessa cosa. Vabbè, cioè, vabbè, andiamo tutti a terra luce e vino, ragazzi. Sono questioni così, cioè stai a guardare. Ma adesso io posso capire la polmonite, ma ste mail, dai, mo perché? Capito? Cioè, poi non se n'è accorto nessuno di questa questione, mo adesso stanno a fare. La questione che il problema è che poi tra l'altro gli americani ci sono rimasti male su sta questione, certo, certo, perché per loro è profondamente importante, che poi sono cose che gli inculcano, perché se tu ci pensi l'americano non neanche lo sa come funziona, ma gli inculcano, ma perché miseria, ma è giusto, gli inculcano, ma no dai. Ma la trasparenza è giusta, cioè, ma noi siamo stati abituati in Italia le cose sotto così, mette una mano davanti e una di dietro. Ma sì, ma anche il marito di Clinton mette una mano davanti e una di dietro. Ma che c'entra? Quella è un'altra situazione. Pure quella Trump, è un'altra situazione. Insomma, mette una mano davanti e una di dietro. Cioè, diciamoci la verità. Su, forza, lei dice, vabbè, ma perché io devo far sapere i cazzi miei, sto a fare un ma accordo? Ma non sono i cazzi suoi, cioè, scusate la parolaccia, ma non stiamo parlando dei cazzi della Clinton, stiamo parlando di affari di Stato. Di Stato, okay? Vabbè. Ok? Quindi sono arrabbiati tutti? Si sono molto arrabbiati. L'americano deve essere tutto politicamente lei credo corretto. Che si sia comunque scusata, o comunque abbia in qualche modo ripreso la situazione in mano. E poi vabbè, chiudiamola dai sta storia tra no, ma a parte prima di chiuderla diciamo che una piccola diciamo, spezziamo una lancia a favore di Hillary, anche se magari avremmo voluto scegliere qualcun altro, ma tanto dobbiamo scegliere noi. E come dice Carmine, informaticamente la Clinton ha fatto una cazzata in mano. No, ma io glielo sto spiegando, ma lui non capisce. Vabbè, comunque. Non è che non capisce, forse siete voi che non capite. Voi state facendo una questione di dettaglio, che per carità sono d'accordo. A me sta a repentaglio la sicurezza delle comunicazioni. Ma non fa niente. Come dice la politica, Carmine. Nella politica bisogna essere faziosi. Chi è l'avversario di Clinton? Ho capito, Simo, ma se io Trump, quindi se l'avversario di Clinton è Trump, significa che a un certo punto Clinton può fare quello che gli pare. Ma no, perché ma allora, bisogna che sia così. Se io ho un account privato, mi ci può entrare chiunque a guardarlo. Ma sì, cioè deve essere protetto, deve essere. Vabbè, ma dai su, ma mica stiamo a fare cotonante. Dai su, forza. Ma non siamo allora, prima di allora, a questo punto io vi mando un altro brano e ci sentiamo dopo. Ciao. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need a the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. Motherfucker, we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Goalies and nine body, every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for a custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Deal then, fuck that, the world's ours. Austin Powers, lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start a conversation. At the end of the day, goddamn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving, I was drinking earlier. What the motherfucker? What the motherfucker? Abbiamo ascoltato lo sborone più sborone dei rapper americani. Con Kanye West con Power, uno che c'ha un sacco di sordi, che sa sempre tutto lui. Mo ve lo spiego io, mo ve lo dico io. Infatti, io vorrei precisare una cosa, perché forse voi mi avete frainteso. Mo ve lo spiego io, perché voi capite il cazzo. Ecco. Questo è un po' importante. Sì, vabbè. Allora, c'è un, c'era un noto, che... un noto speaker della praticamente romano. Il microfono, no? Il salve, io sono. Sto brugando l'erba, scusate. No, perché io ho le cuffie, quindi sai, non è che mi fa proprio bene alla salute tutta sta cosa. Che praticamente mi ricorda. Vabbè, c'era sto speaker di Radio Rock che si chiamava Marzullo. Che praticamente, vabbè, lui era tipo il proprietario, insomma, era tipo il capoccia, no? E quando ci stavano gli speaker che stavano a parlare di qualcosa, lui piava, imboccava dentro gli studi, no, boh, spiego io, non capito in cazzo, qua, là, boh, e poi giustamente talmente tanto il male che gli hanno tirato, che poverino poi insomma ha fatto anche una brutta fine, e non è il mio caso chiaramente, però mo ve lo spiego io com'è, perché no, vabbè, capito? Ma tutti qua mi parlano della moglie di Kanye West, sì, sappiamo che è una tutta plastica, pure lei c'ha un sacco di sordi, però non è americana. È armena, ah, hai capito? Sì, perché vedi, poi vabbè, quindi è la sopravvissuta. No, viene da una famiglia armena che si è radicata in America da una vita. Poi voi sapete che fanno gli armeni in America, no? C'hanno la mafia. La mafia ignorante, insomma, quindi vabbè, comunque, al di là della questione delle mail, che io sono d'accordo. La serata dei populismi. Ma sì, dai, poi la questione delle mail, io lo posso pure capire che ci sono le questioni sensibili, diceva Carmine prima dentro la chat, però è anche vero che magari sono pure cazzi sua, cioè nel senso, magari doveva mandare le foto sue da Giorgia a qualcuno, no? Dite, insomma, e non lo poteva fare con le mail ufficiali del COV. .gov.it vabbè, esatto. Dai, su, poi, stiamo degenerando. Un'altra delle contestazioni che è stata fatta a Hillary è pure il fatto che lei pare che sia protetta dai poteri forti dal punto di vista economico e finanziario. Questo anche in Italia molti la contestano, insomma, da questo punto di vista. Però va bene, cambiamo un po' argomento. E succede che l'amministrazione Obama è arrivata al capolinea, giustamente, perché ci sono le elezioni, e il presidente degli Stati Uniti ha la possibilità di fare un'ultima cena di Stato, e ogni volta un presidente sceglie lo Stato con il quale fare questa ultima cena di Stato. Come sapete, recentemente c'è stata la cena di Stato appunto del presidente Obama, che ha invitato l'Italia, quindi il presidente Renzi, che si è portato dietro una ricca delegazione, insomma, come spesso e volentieri succede, perché poi queste sono comunque occasioni per interscambi economici, finanziari, politici, culturali anche, insomma, quindi... Continua. Perché devo... No, te lo spiego io, perché sennò tu non lo sai, no? Sì, vai. Spiegaci a tutti. Sta a leggere. Vabbè, dai, vai. Allora, spiegaci. No, vabbè, ma perché il link che mi hai mandato praticamente parte dalla prima cena all'ultima. Comunque... il 18 ottobre 2016 è Matteo Renzi con la delegazione italiana l'ultimo ospite dell'State Dinner alla Casa Bianca. 5 stelle in onore dell'Italia, un presidente della Repubblica e 3 presidenti del Consiglio. Perché Giulia Andreotti viene invitato 2 volte, bello, bella cena con Giulia Andreotti. Ragazzi, ma Giulia Andreotti era Giulia Andreotti, Certo. Giulia Andreotti era il Marzullo, era il Marzullo della politica mondiale, cioè non è mica l'ultimo di Fregnacciari, insomma, cioè era quello. Il Financial Times ha scritto che quello organizzato dagli Obama per Matteo Renzi è un trattamento da star, in parte per premiare Renzi, diventato uno degli alleati più affidabili in Europa. Alla cena, e qui andiamo al clou, cioè, dell'argomento. Uno degli alleati più affidabili in Europa significa contro l'Europa, poi, chiaramente. Assolutamente. Sa che l'obiettivo degli Stati Uniti è distruggere l'Unione Europea. Quindi. Alla cena curata dal celebre chef italo-statunitense Mario Batali, non lo so, comunque non so. Ho visto un servizio su quello che cucinava delle schifezze assurde. Infatti me lo immagino. Ma una roba assurda. Oltre alla moglie di Renzi, Agnese Landini, erano presenti i premi Oscar Roberto Benigni e Paolo Sorrentino e 4 donne che rappresentano l'eccellenza italiana. La sindaca di Lampedusa è volto simbolo dell'accoglienza ai migranti. Così, certo. Proprio, è importante. Becero populismo proprio. Ma no, secondo me è stato un bel gesto. Giosi Nicolini, la campionessa paralimpica Bebe Vio, la direttrice del CERN Fabiola Giannotti e la curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA Paola Antonelli. Il CERN, ricordate, è sempre quella famosa storia del tunnel sotto al Monte Bianco. Intanto, se sentite tutti questi rumori infami, è perché dopo 64 anni ancora niente, non ci sono santi. E è stato bello vedere, insomma, il fatto che la First Lady degli Stati Uniti è al confronto con la First Lady italiana, insomma, cioè, certo, a livello proprio di semplicemente di gossip, diciamo che il confronto non reggeva. Tu che dici, Michele, un po'? Ma diciamo che comunque, beh, cioè... già la moglie di Renzi Purina, insomma. La moglie di Renzi Purina è bruttina, cioè Michelle Obama è una stangona bella come il sole, e quindi è difficile. Niggaz, poi sì. Fa sempre il suo dovere. Ma ricordate la moglie di Gorbaciov? Ma ricordate? Non vi ricordate neanche la moglie di Gorbaciov? No, Carmine ci dice: ma il povero Piovani che prese l'Oscar per la colonna sonora della Vita è Bella non lo hanno portato. No, non l'hanno portato. Ma no, per esempio, avrebbero dovuto portare tipo, che so, Ennio Morricone. Ennio Morricone. Sai, Ennio Morricone è comunista, quindi non può accedere. Non ci può andare. Non ci può assolutamente andare. Cioè, questa è una cosa. Vabbè, comunque c'è stata sta cena. Sì. Che poi, tra l'altro, diciamoci la verità, Obama ha fatto proprio l'endorsement a Renzi, perché addirittura si è messo a parlare pure del referendum, e allora sul referendum e le modifiche costituzionali ha detto sì, bisogna votare sì, perché votare sì significa modernizzare, significa cambiare, è un atto di coraggio. E fate poi ragazzi tu Obama, perché insomma, come dico, adesso tu te ne vai in pensione fra un mese, e cioè, nel senso, e ci sono state anche delle polemiche in Italia, infatti molti anche dell'opposizione, del fronte del no, hanno detto Obama, cioè proprio così, proprio ufficialmente, Obama ci fa schifo. tipo, sì. Certo. Obama, una volta Obama bello, De Gasa e tutto quanto, Obama una merda. Merda, esatto. Che poi, diciamoci la verità, è stata un po' una delusione Obama. Un po', dai, ma, un po' è stata una delusione. Cioè, ma no, se, secondo ma me. Ma non lui... era nobile, non era Nobel su, per la pace. A parte sì, Nobel sulla pace, il Nobel per la pace è veramente Nobel più, diciamo così, dato a prescindere. Beh, io Vladimir Luxuria me la sarei portata tutta la vita, voglia, ma, simpaticissima, cioè. Anzi, se vuole venire in trasmissione ci piacerebbe un sacco. Quasi quasi la invidiamo. Diciamo che non so se ci viene, vabbè, però comunque diciamo un po' di delusione Obama ce l'ha lasciata, dai, un po'. Beh sì, secondo me più che delusione, perché comunque ha fatto il suo lavoro e l'ha fatto bene e diligentemente. Ha fatto più guerre di Bush, sì. Ha lasciato comunque una situazione mondiale devastante e devastata, e diciamo che dal punto di vista dal punto di vista diplomatico è stato veramente poco perspicace, poco... Però cioè lui doveva rappresentare un po' la rivoluzione, il primo presidente di colore degli Stati Uniti. Ma lui si è occupato secondo me molto di più degli Stati Uniti, e quindi ma nonostante ci siano molti problemi negli Stati Uniti non è riuscito, cioè sì. Dicevano che era un socialista, voleva mettere la sanità pubblica. Voi sapete che all'americano tu gli dici la sanità pubblica significa guarda che così ti puoi curare anche tu. No, l'americano non può essere, bisogna essere che tutto diciamo si paga. Come dice Carmine, ha sofferto delle troppe aspettative, sì, forse è questo. Forse è questo che ha caratterizzato i suoi due mandati, perché per poi esempio, alla fine è stato le aspettative verso il potenziale primo presidente donna, per esempio, perché poi vedi, gli americani hanno sdoganato, cioè stanno per sdoganare questi due tabù. Ma no, ma loro il presidente Nigga e il presidente donna. Allora, a parte che cioè, mi sembri veramente Galluzzo. Cioè, chi è Galluzzo? No, Galluzzo, scusa. Ma se insultiamo gente a casaccio, no, così guarda che Mazzullo, cioè, Mazzullo. Dai, non capisci niente, ma te lo spiego io. Capito. Diciamo che non credo che sia così importante. Sì, per noi è stato importantissimo evidenziare il fatto che il primo presidente nero, la prima presidente donna. No, è stato importante pure per loro, lascia perdere. Ma io non credo che sia così. Ma come no? Credo che comunque molti auspichino l'arrivo di Hillary Clinton per sistemare molte cose dal punto di vista diplomatico. No, dal punto di vista diplomatico, perché forse lei è quella che comunque in qualche modo ha lavorato come segretario di Stato e ha lavorato sul fronte internazionale molto di più di Obama. Per quanto secondo me la Clinton è un po' la Boldrini americana, c'ho sta sensazione, non so perché. Ma gli piacerebbe la Boldrini. Senza meno, però. Ma secondo te, se la Clinton vince nel Senato degli Stati Uniti, portano i bicchieri di carta? Così è una domanda così un po' populista, tanto buttata lì. Molto lo spiego io. No, vabbè, è rimasta scioccata da questa cosa. Comunque, torniamo alla delegazione italiana. Perché poi noi, quando. Allora, forse vi ricordate la questione che diceva sempre Beppe Grillo quando ci fu la storica delegazione del governo italiano che andò in Cina, no? Quando c'era Craxi, sì. Che c'era l'aereo dei socialisti che praticamente è sceso giù e sono scesi in 50, no? E da lì poi noi abbiamo sempre avuto questa questione di criticare, no, le delegazioni a prescindere, perché a noi non ci sta mai bene un cazzo, no? Allora, vabbè, Benigni può essere contestato, può piacere, insomma, Sorrentino, vabbè, può essere, puoi dire quello che te pare, roba del genere, però c'era questa questione non so che c'è da dire contro Sorrentino. No, però la gente c'è, comunque trova sempre qualcosa da dire, insomma, perché cosa. Però ecco, c'è stata questa questione dell'atleta paralimpica di Beppe Vio, che è la campionessa paralimpica di Rio 2016, che è stata invitata anche lei alla cena alla Casa Bianca. E mentre lei non nasconde il suo entusiasmo e ci mostra il suo vestito Dior che indosserà per l'occasione, ci spiega come si sente una piccola parte dell'internet, una piccola parte dell'internet ha già trovato da ridire sulla sua presenza a Washington, sul suo vestito, sul modo di esporsi in pubblico e persino sulla frase simpatica che lei comunque ha voluto sdrammatizzare, dicendo che avrebbe portato con lei tutto il necessario e soprattutto avrebbe portato con lei le sue gambe col tacco. E lì proprio veramente, cioè, abbiamo dato il meglio del peggio della nostra, allora, internet, essenza. Questo noi l'abbiamo detto, diciamo, pure quando c'era ancora di tutto un podcast. Internet. Chi cacca la cena di Pepe Vio, i massoni? Vabbè, comunque dico, noi abbiamo detto già da tanto tempo fa, questa questione di internet è una questione sempre molto delicata, perché da dietro la tastiera tutti sono buoni a scrivere le stronzate. Abbiamo visto con quanto accanimento, per esempio, si sono accaniti verso appunto quella ragazza napoletana, quella ragazza campana che si è suicidata per tutte le questioni, insomma, delle foto hard, e abbiamo visto veramente scritto di tutto e di più. Io sono anche parzialmente d'accordo sul fatto che non bisogna essere sempre politicamente corretti, perché se bisogna dire delle cose bisogna anche dirle. Sì, infatti Danilo ci dice, sì, però sta ragazza la stanno a mettere da tutte le parti e quindi un po' ci ha rotto il coglione. Ecco, cioè nel senso, non so se vi ricordate, come si chiamava quella ragazza che faceva la modella, cantante cieca, Laminetti. Però Laminetti è una gran paracula. Ecco, cioè nel senso, io a Milo la detestavo, perché quella probabilmente se non avesse avuto quell'handicap non sarebbe stata nessuno, sì. Non è stata nessuno uguale. Sì. Questo sono d'accordo con voi, quindi questo. Però poi non c'è solo una questione di rispetto, c'è anche una questione proprio di sensibilità, cioè anche di umanità. Perché veramente accanirti contro cose? Io poi, Danilo, già ne abbiamo parlato un po' di questa questione, poi magari ognuno la pensa un po' come vuole, no? Cioè, accanisciti su un fatto concreto, non t'accani, voglio dire, laddove comunque c'è poco da dire, è più difficile difendersi o è più facile attaccare, no? Perché poi comunque, se tu mi dici, io alla cena porto le eccellenze italiane, porto sta ragazza che ha vinto diverse medaglie alle Olimpiadi, diverse medaglie d'oro, sì, insomma, vedi, per me questa è un'eccellenza. A 16 anni è chiaro che lei ha manifestato anche il suo entusiasmo. Voi dovete anche entrare nell'ottica di chi vive questa vita, come la vive, in che maniera esorcizza anche il modo in cui deve vivere, perché insomma questo è un po' sempre da fare un po' attenzione su questo tipo di discorso. E vabbè, anche Salvini poi mi pare che ci ha avuto dati. Salvini ci aveva su tutti, cioè comunque a prescindere e indiscriminatamente, ma questa, vabbè, lo sappiamo, insomma, è una storia che vista e rivista. Martedì sera il bugiardo Renzi sarà a cena col disastroso Obama, fra gli altri si farà accompagnare dal triste Benigni. Non è, ah, che poi pure abbiamo una battuta pure su Benigni, chissà che risate e chi se ne frega della guerra mondiale che queste menti malate ci stanno facendo rischiare, attaccando Putin e finanziando estremisti islamici, primavera arabe, immigrazione, non è che senza precedenti. Non è che Salvini si dà solo al populismo, che già sappiamo, ma proprio al becero complottismo interplanetario, cioè proprio, vabbè. Io direi a questo punto facciamo una pausina, che poi sì, insomma, andiamo agli ultimi argomenti che non sono facciamo rimasti. Facciamo una pausona perché che ci abbiamo? Ah, ci abbiamo gli The Who ci abbiamo, e ascoltiamo God Gonna. Credo che tu abbia tagliato qualcosa. Sì, il titolo completo l'ho tagliato. Vabbè, ce la sentiamo, poi dopo la disannunciamo. Va bene, facciamo una cosa così che va bene. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Allora, abbiamo ascoltato Johnny Cash, non erano gli Who. Qua ci siamo un po'... mio marito mi ha messo il riassunto delle, delle canzoni, quindi mi sono un po' incastrata. Ma già tanto che ci stanno. Dalla colonna sonora del fantasticissimo film Django Unchained, Unchained, scusate, Django abbiamo ascoltato God's Gonna Cut You Down. Molto spiego io come si chiama il film, si chiama Django Unchained. Django. Gran film. Bello. Allora, io divertiti. E Michela l'altra sera siamo andati al cinema, poi vi diciamo che cosa siamo andati a vedere, perché sì, adesso vi spieghiamo questa cosa, poi un altro brano e poi vi diciamo che cosa siamo andati a vedere, anche se penso che ci segue su Facebook lo sa. Però tra i vari trailer, a parte Doctor Strange, oppure che so, sono come quell'altro che c'è vicino? Animali notturni. Michele, però così tu mi distruggi le timpani, te l'ho detto 3 volte. E, sì, abbiamo visto un trailer che ci siamo detti un po' come quando è morto Steve Jobs, no? Che sono usciti fuori 3-4 film di Steve Jobs. Allora, è la storia d'amore tra Barack e Michelle Obama. Si chiama Ti amo presidente. Si chiama Suicide with You. Suicide with You. Ah, ok. Il titolo italiano è Ti amo presidente. Ti amo presidente, sì, non c'entra niente poi, tra l'altro, perché non... Opera prima del regista e sceneggiatore Richard Tanne. In scena il primo incontro e corteggiamento tra il futuro presidente degli Stati Uniti e l'avvocatessa Michelle. Perché adesso la cosa che si sta delineando un po' come sta succedendo con Hillary, quindi siamo, diciamo così, trainati da questo effetto comunque girl power, è il fatto che comunque il personaggio più importante dall'uscita di questa storia comunque presidenziale non è tanto Obama, perché comunque un po' forse ha fatto qualche figuraccia meschina, quindi è meglio metterlo un po' nel dimenticatoio, ma è Michelle Obama. Quindi la storia d'amore è nata di entrambi, sicuramente vengono delineati entrambi i caratteri peculiari dei personaggi, però che non comunque assomigliano per niente poi, tra l'altro. Sì, non assomigliano per niente, e poi da quello che ho visto nel trailer sembra che comunque lei sia una super mega cazzuta, quindi cioè nel senso una bella forte che comunque Beh, dicono che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Vedi, scusate se è poco. No. Salve, sono una grande donna. Di fronte a tutta tutta questa grande retorica che si è sempre detta, insomma, però voglio dire, probabilmente, allora ci domandiamo, ecco perché Hillary Clinton diventa presidente degli Stati Uniti, perché dietro al marito c'era sicuramente la moglie, Poi dopo che la moglie quando non c'era lui faceva altre cose, era un discorso. Vabbè, ma no, scusa, è proprio perché per quello che c'era la moglie, nel senso che lui era occupato a fare altre cose. Quindi vai. Infatti no, perché poi ma io sai che lo sapete che di Clinton mi ricordo poco o niente, ricordo solo quando fu eletto che erano tutti contenti, la gente a farsi le bombe sotto la Casa Bianca. Comunque lo volevo dire proprio con tutto il cuore, di questo film non ne sentivamo assolutamente il bisogno, no, e sicuramente non lo andremo a vedere mai, mai, a differenza di Animali Notturni che invece che andremo a vedere. Non sappiamo com'è il titolo originale del gioco, del film, però sappiamo che c'è lei che ha fatto qualcosa di terribile a lui, sì, e lui si tipo gli dà questo libro che racconta di comunque quello che lei ha fatto a lui, esatto. E quindi noi andremo a vederlo quello sicuramente, e sì. Andremo a vedere anche Doctor Strange, perché è nerd, purtroppo abbiamo tutti amici nerd che gli altri film non ci vengono con a vederli, faticano anche a venire a vedere quelli nerd di film, ve lo voglio dire, perché insomma vi voglio bene ma siete delle sole, amici miei. Comunque non so, io sono diventato solo nel frattempo, perché non direi che ti dico di non strillare sul microfono, però la volevo bene. Abbracciare, certo, va bene, dai, brano, e poi parliamo del film di cui abbiamo parlato, cioè sì. Nel senso di cui abbiamo insomma hai capito, no? Al solito noi ci addormentiamo nel mentre che succedono le cose, e nel mentre, come dice sempre mia moglie, non si dice. Siamo andati al cinema. Allora, intanto abbiamo ascoltato i Beastie Boys. Giusto, hai ragione. E abbiamo ascoltato Sabotage. Ma per me, sai, la musica non conta. Ma come non conta? Cioè, i Beastie Boys abbiamo ascoltato, ragazzi. Beastie Boys. E siamo andati al cinema e abbiamo visto un film che se ne è parlato molto per via del libro, perché pare che questo libro insomma sia particolarmente interessante, ben scritto, ben approfondito, sai, di quelle storie familiari molto profonde, e che mia moglie infatti si è comprata. Allora noi, prima di andare a leggere il libro, siamo andati a vedere il film, perché oggettivamente perché abbiamo visto, perché non ci andava di leggere il libro, esatto, perché noi compriamo il libro ora poi andiamo a vedere i film. E però no, ci siamo andati perché il trailer, che era un trailer paraculo perché fondamentalmente non ti dice niente, comunque si è mostrato come un trailer molto bello esteticamente, quindi una cosa era sicura, dice, magari il film non è un granché come tutte le recensioni dicevano, però almeno visivamente è un bel lavoro, perché insomma bisogna ammettere che fotograficamente, dal punto di vista cinematografico, è veramente un film ben girato. E stiamo parlando di American Pastoral. American Pastoral, che tra l'altro è la perché opera... devi strillare? Io non ti capisco, mi uccidi. Vai. Scusate, mi sono chiusa nel c'è silenzio. Anche lavoro, esatto, si è la mestizia. L'opera prima di Ewan McGregor alla regia, che non se ne sentiva il bisogno. No, cioè, tutto bravo come attore, sai, ma perché te dovevi mettere a fare? Comunque, si è cimentato in questa avventura. Avventura grossa. Questo film. In questo film tratto da questo libro del 1998 che ha vinto addirittura un premio Pulitzer per la narrativa, niente meno. Pensate, quindi insomma un bel librone. Noi l'abbiamo comprato l'altro giorno. Facciamo una cosa semplice. Di che cosa parla di questo film? Parla praticamente della storia di questo tizio, si chiama lo svedese. Sì. Che si sposa e che era un atleta universitario del Tennessee, no? Del Tennessee, no? Il New Jersey che era. Sì. Insomma, uno di questi che si sposa con la Miss, quindi insomma, una famiglia felice, hanno questa figlia, vivono in questa fantastica fattoria e praticamente durante la crescita, quindi l'evoluzione anche individuale di questa figlia, praticamente questa figlia prende una piega che è quella di una piega politica rivoluzionaria molto radicale, molto forte, insomma. Sì, diciamo che questa figlia compie un attacco terroristico molto, dove muore una persona poi molto vicina alla famiglia, quindi comunque segna comunque gli eventi in questo modo, il passaggio degli eventi in questo modo, e poi sparisce. Quindi praticamente tutto il film è incentrato sulla sparizione e la ricerca da parte del padre di questa figlia e diciamo così l'atteggiamento comunque della madre nei confronti di questo trauma così forte e il modo, i diversi modi in generale verso la figlia e poi successivamente anche verso il trauma, cioè gli egoismi, le gelosie, tutta una serie di meccaniche familiari che chiaramente sul libro saranno sicuramente stra raccontate in maniera estremamente divina, ma che nel film fondamentalmente no, cioè nel senso il film è un film bello che è anche piacevole da guardare, ma che non mette a fuoco, visivamente molto bello, ma che ha perso una grande occasione, sì, perché non fondamentalmente non approfondisce nulla, cioè noi non capiamo il perché la ragazzina prende una determinata piega, come evolve il personaggio, come si innescano determinati meccanismi tra madre e figlia anche, e soprattutto tutta l'epopea della ricerca del padre è molto sintetizzata, tutto è molto sintetizzato, diciamo che vari aspetti, cioè nel senso c'è una forte sintesi in tutto il film e quindi così una necessità e comunque una continua sintesi che poi alla fine non riesce a sviluppare nessun tema, nessuna emozione, anche cioè ci sono comunque delle scene potenzialmente molto belle che vengono spezzate a metà e forse per una scelta stilistica o per una scelta comunque scenografica, di sceneggiatura eccetera, però comunque inspiegabilmente, cioè dal punto di vista dello spettatore diciamo così povero di nozioni cinematografiche, è un film quasi incomprensibile, cioè per carità, la storia si capisce tutta eccetera, però si capisce anche troppo bene, nel senso che poi alla fine questa è la storia. Secondo me è proprio il fatto che non veramente non mette a fuoco, non approfondisce, cioè non spiega, non fa vedere il modo in cui evolvono i personaggi. Ma questo è prevalentemente un problema di sceneggiatura, cioè proprio secondo me a livello di scrittura il film non riesce, cioè la storia non riesce ad andare in profondità. Probabilmente è anche complicato, perché visto che viene da un romanzo particolarmente articolato e intenso. E poi sicuramente dal punto di vista registico è un film che non esprime, cioè nel senso non è riuscito a dargli l'intensità che solo una scena è particolarmente intensa, vibrante, sì. E infatti viene troncata, viene interrotta in maniera incomprensibile. Ma più che interrotta viene chiusa velocemente, così come se dice non voglio rimarcare troppo questo, cioè è anche una scelta, però è una scelta che io non condivido, cioè senza me non mi è piaciuto fondamentalmente. Ribadisco, un film da vedere bello, perché visivamente fotograficamente è bello. Molto bello, anche l'utilizzo delle immagini di repertorio, di archivio, comunque una bella idea, eh sì, me. Perché poi l'ambientazione chiaramente sono la metà degli anni 60 al 68 e via dicendo, quindi tutta la fase calda della politica anche di rivolta americana, quindi è, voglio dire, cioè, gli ingredienti c'erano tutti. Sì, la guerra fredda, più che la guerra fredda, la guerra del Vietnam. No, Vietnam, esatto, la guerra del Vietnam e tutta insomma la fase pacifista e radicale rivoluzionaria americana, insomma, che era veramente interessante. Cioè, veramente il materiale c'era, e si finisce poi cioè c'è anche il, tra virgolette, il finale, dove tra l'altro non c'è neanche un lieto fine, perché cioè no. E vabbè, ci può anche stare, però anche quando poi il padre completa questa ricerca, riesce a raggiungere il suo obiettivo, comunque quello che si trova di fronte è comunque un soggetto che è ulteriormente trasformato, e noi non capiremo mai che la c'è la trasformazione. Sì, ma non capiremo neanche la trasformazione dei personaggi, cioè l'evoluzione del personaggio, cioè comunque della figlia, che comunque ha un'evoluzione importante, molto importante, che comunque vabbè, non vi voglio svelare proprio tutto, però comunque vive delle diciamo così, degli episodi che comunque la segnano al di là dell'attentato, che comunque potrebbe essere un semplice errore di ragazzina, una stupidaggine, comunque per aver seguito persone sbagliate eccetera. Lei reitera e incontrando sempre persone sbagliate che comunque la portano a vivere continui traumi, e questo comunque segna la ragazza in un modo indelebile, questo aspetto poteva essere secondo me molto più diciamo così romanzato, molto più accentuato, molto più raccontato, cioè non che dovevamo dilungarci su sta poretta, insomma, che però ci sono degli episodi che veramente vengono lasciati lì così, buttati lì così, sì, che rendono... Poi nella semplificazione finisce anche che il soggetto radical, quindi un certo tipo di ambiente politico americano, viene anche denigrato alla fine, sì. Anche demonizzato, sì. Quindi cioè alla fine è un film che è un'occasione sprecatissima, sì, in realtà. Io credo, vabbè, adesso magari mi leggerò anche il libro, però credo e spero che qualcuno lo riprenda in mano questo soggetto, perché secondo me merita una seconda occasione. Va bene, allora guardate, facciamo così velocemente, perché siamo veramente un po' oltre quello che ci aspettavamo. Ci ascoltiamo proprio un brano, sì. Che è comunque collegato al film. Poi, no, non è collegato. No, non è collegato al film. No, è un bellissimo brano che comunque è godibilissimo, ma non è collegato, non è collegato al film. Collegato. Allora perché lo dobbiamo ascoltare e non ascoltiamo quello che dico io, così tanto per, insomma. Perché quello che dici tu lo ascoltiamo dopo. Ok, certo, perché tanto perché dobbiamo accorciare. Va bene, ci sentiamo fra qualche minuto. Stay long enough for the clouds to fly away. copia, quindi non è collegata al film questa. No, assolutamente no, non mi sembra che abbiano usato Jeff Buckley e abbiano usato Grace. Non ti sembra, non però sembra. Tu l'hai voluta inserire, anche se secondo me adesso ci stava una cosa, perché parliamo di un personaggio. E ne parliamo fra poco. No, ne parliamo subito. Allora, intanto volevo dire a Baricco di smettere di chiamare i re di Svezia. Di Svezia, perché tanto a lui e Nobel non glielo daranno mai e non... No, aspetta, precisiamola bene questa cosa. Baricco fa così, prende il fazzoletto, lo mette sulla cornetta del telefono e fa... Io volevo dire che secondo me il Nobel lo dice Baricco. Baricco e Nobel, esatto. Uno bravo, uno cagliotto. E che gli dicono: Baricco, attacca per favore, insomma, perché il Nobel per il Nobel per la letteratura è stato dato a Bob Dylan, è stato assegnato a Bob Dylan la settimana scorsa, no, ormai il 13 ottobre è stato Baricco assegnato. C'è una bussa, assolutamente. Ma Baricco, ma poi Baricco, ma che cazzo vuoi, cioè, nel senso, a me piace anche, diciamoci la verità, però insomma, che cazzo vuoi, perché insomma, però è vero che sto premio Nobel, che insomma ultimamente stanno perdendo, come dire, anche un po' di valore, perché li stanno da un po' a casaccio. Salutiamo, no? Danilo, che c'è, lui c'è, quindi... Salutiamo Danilo, c'è, è come sull'autostrada è scritto Danilo c'è. Vabbè, a parte Baricco che ha rosicato una cifra, esatto. Immotivatamente, perché Baricco manca immotivatamente, no, perché cioè alla fine è mo il premio Nobel, cioè io Bob Dylan idolo, per carità, però il premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan no, cioè nel senso, e Bob Dylan stesso lo sa, che infatti dice, cioè io manco ti rispondo, cioè nel senso, mi state a prendere per culo, ma non ci vengo. Sì, infatti mi viene da pensare che... Che lui pensa che è uno scherzo, secondo me. Cioè, Bob Dylan... Tra un po' ci saluta Maria Pina, noi salutiamo Maria Pina del Toro. Grande, e... soprattutto Danilo ci dice, tra un po' vincerà il premio Nobel pure Mago Thelma, insomma, perché, vabbè, quella è più o meno la piega che sta prendendo sto premio Nobel. Sì, soprattutto quelli sulla pace, che sono dati proprio a casaccio. Sì, sì. E comunque è stato definito poi da un accademico di Svezia maleducato e arrogante. Beh, questo sì, però, perché allora ti danno il premio Nobel per la letteratura, che tra l'altro corrisponde anche a un assegno cospicuo desorda, insomma, quindi neanche a dire che è una circa 900.000 euro. Esatto, una volta forse era uno dei più, sì, sono diventati poveri pure i svedesi alla fine, insomma, stanno e comunque ti danno questo premio, al massimo rispondi, dici guardate, io vi ringrazio ma non mi sento all'altezza di poter accettare questa cosa, allora va bene, lo posso anche capire, ma che non rispondi proprio, insomma, a un reale di una nazione straniera, insomma, non è proprio cosa buona e giusta. Bob Dylan, per cortesia, insomma, non mi fa il De Gregori dalla situazione, perché poi sappiamo che Bob Dylan ha preso molto da De Gregori, no? Ma certo, giustamente, scusa, certo. No, tra l'altro De Gregori non ha fatto ultimamente un disco intero in cui ha rivisto tutte le canzoni di Bob Dylan. Beh, ma De Gregori, appunto, invertendo quello che ho detto prima, si è sempre ispirato. Ma che ci fa in un posto simile una ragazza come te? Era più o meno questa. Madonna, poi cioè veramente le campane proprio. Va bene, e quindi volevamo chiudere un po' con questa cosa, che allora che più un po' per trollare Baricco piuttosto che per pensare al fatto che Bob Dylan abbia preso. Intanto c'è stato un piccolo segnale di ripresa da parte di Dylan, però poi proprio non gliela fa. Infatti è successo che l'annuncio c'è stato intorno al 13 ottobre, dopo aver sostanzialmente ignorato la notizia per una settimana, evitando qualsiasi commento anche durante i concerti. Vabbè, d'altronde stava in tour. Il musicista aveva lanciato un segnale, sia pur molto sfumato, su una pagina del suo sito ufficiale, che promuove un nuovo libro sui testi delle sue canzoni. E tra le credenziali era comparsa anche quella relativa al premio Nobel per la letteratura. E però è stato subito cancellato, quindi non ce l'ha fatta, no, ha detto no raga, io non ce la posso fare, non lo voglio questo. Beh, è un po' strano come atteggiamento, io veramente, boh, poi onestamente sono atteggiamenti e modi di fare che non ho mai. Ma Mario Pino, ma perché te devo dare la ricetta dei pancakes? Ah, perché siamo parlati di America? Ok, se volete mo la tiriamo fuori così a casaccio. No, in realtà siamo veramente fuori tempo limite, volevamo dire questa cosa di Bob Dylan, perché sì, comunque insomma è una peculiarità. Poi Bob Dylan, ma Bob Dylan se ti avanzano 900.000 euro infatti sì, per fare Runtime Radio, cioè Runtime Radio sai che ce fa con 900.000 euro, ce fa pure la casa Runtime Radio, la famo in Dolby Surround Atmos Digital THX. Vabbè, detto questo, allora vi salutiamo con la canzone di Bob Dylan. Vi ricordo che Runtime Radio domani mattina, come sempre dalle 8 alle 13, ci sarà questa ci sarà proprio questa puntata verso la fine insomma della programmazione, intorno alle 11 giusto come replica. E domani sera vi ricordo alle ore 21 ci sta MDB Summer Radio con Alex Raccuglia, mercoledì sera invece alle 21.30 il primo live dell'Occhio del Beholder, e lunedì prossimo c'è Mono, una puntata dedicata ai System of Down. Niente, io non riesco a capire, comunque sì, c'è Mono e siamo contenti insomma che torna Mono con una musica un po' che spinge, perché insomma ultimamente avete sentito anche da questo episodio due palle, no, queste selezioni musicali, anche se rimane sempre il nostro direttore artistico Michela, che noi gli vogliamo bene. Dunque, detto questo, cercate Everything su Facebook cercando la pagina ufficiale, fate mi piace, lì seguite ovviamente tutti i vari eventi per quando faremo il prossimo live, soprattutto seguite Runtime Radio sempre su Facebook oppure www.runtimeradio.it. se avete idee oppure suggerimenti oppure vi volete proporre per realizzare voi una trasmissione o un programma, potete tranquillamente scrivere a info@runtimeradio.it. detto questo, io Simone Pizzi vi saluto. Anche io, Michela De Paola, vi saluto piano piano, perché se non mi sgridano, esatto, mi abbraccio il microfono. Eh sì, ma ci sono delle conseguenze proprio fisiche, sì, questa cosa. E vi salutiamo, salutiamo Danilo, salutiamo chiaramente Maria Pina, salutiamo Carmine e tutti coloro che ci hanno ascoltato, Tullio e compagnia bella che sono stati presenti in chat, e vi lasciamo giustamente con un brano proprio di Bob Dylan, mi pare proprio giusto perché insomma ne abbiamo parlato. The times they are changing. Ciao e alla prossima puntata. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing.